Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Vedendo Kitty che se ne andava e la madre che l'aspettava sui gradini, Levin, ancora tutto rosso dopo il rapido movimento, si fermò e rimase pensieroso. Si tolse i pattini e raggiunse la madre con la figlia all'uscita del giardino. «Molto lieta di vedervi», disse la principessa. «Giovedì, come sempre, noi riceviamo». «Allora oggi?» «Saremo molto lieti di vedervi», disse in tono asciutto la principessa. Questo tono asciutto amareggiò Kitty, che non poté trattenersi dal desiderio di cancellare l'impressione di freddezza data dalla madre. Volse la testa e con un sorriso proferì: «Arrivederci». In quel momento entrava nel giardino Stepan Arkadich con il cappello di traverso, raggiante nel viso e negli occhi, simile ad un allegro vincitore. Avvicinatosi però alla suocera, rispose con una faccia triste e contrita alle domande di lei sulla salute di Dolly. Dopo aver parlato a voce bassa e afflitta con la suocera, raddrizzò il petto e prese sotto braccio Levin. «Allora, andiamo? Ho sempre pensato a te e sono molto, molto contento che tu sia arrivato», disse guardandolo negli occhi con un fare significativo. «Andiamo, andiamo», rispose Levin, che era felice e non cessava di sentire dentro di sé il suono della voce che diceva «arrivederci» e di vedere il sorriso con il quale ciò era stato detto. «All'Inghilterra o all'Ermitage?» «Per me fa lo stesso». «Allora all'Inghilterra», disse Stepan Arkadich, scegliendo l'Inghilterra perché là, all'Inghilterra, aveva un debito più grosso che non all'Ermitage. Per questo riteneva non fosse bene evitare quest'albergo. «Hai una carrozza?» «Ah, benissimo, perché io ho rimandato la mia». Quando Levin entrò nell'albergo con Oblonsky, non poté non notare una certa particolarità d'espressione, come un trattenuto splendore, sul viso e in tutta la figura di Stepan Arkadich, che si tolse il paltò e con il cappello a sghimbescio passò nella sala da pranzo, dando ordine ai tartari che erano accorsi con i frac e le salviette. Salutando a destra e a sinistra i conoscenti che aveva lì come dappertutto e che lo accoglievano con gioia, si avvicinò al buffet, accompagnò la vodka con un pesciolino e disse alla francesina dipinta e piena di nastri, trine e volant che sedeva alla cassa qualcosa in modo che anche lei si mise a ridere di cuore. Levin invece non bevette la vodka solamente perché gli dava ai nervi quella francesina che pareva tutta fatta di capelli altrui, poudre de riz et vinaigre de toilette. Si affrettò anzi ad allontanarsi da lei come da un luogo sudicio. Tutta la sua anima era colma del ricordo di Kitty e nei suoi occhi splendeva un sorriso di trionfo e di felicità. Thank you. Levin bevette la sua coppa e rimasero in silenzio. «C'è un'altra cosa che ti devo dire. Conosci Vronsky?» domandò Stepan Arkadyč a Levin. «No, non lo conosco. Perché me lo domandi?» «Dacci un'altra bottiglia!» si rivolse Stepan Arkadyč al tartaro che aveva riempito le coppe e gironzolava intorno a loro senza che ci fosse alcun bisogno di lui. «Perché dovrei conoscere Vronsky?» «Dovresti conoscere Vronsky per il fatto che è uno dei tuoi rivali.» «Chi è questo Vronsky?» disse Levin, e dall'espressione fanciullescamente statica che poco prima Oblonsky contemplava, il suo viso passò di colpo a un'espressione cattiva e sgradevole. «Vronsky è uno dei figli del conte Kirill Ivanovich Vronsky. È uno dei migliori campioni della gioventù dorata di Pietroburgo. Io l'ho conosciuto a Tver quando mi trovavo là in servizio militare, e lui ci veniva per l'arruolamento delle reclute. Terribilmente ricco, bello, grandi relazioni, aiutante di campo dello zar e nello stesso tempo un buon ragazzo, tanto caro. Ma qualcosa di più che semplicemente un buon ragazzo. Come l'ho conosciuto qui, è anche colto e molto intelligente. È un uomo che andrà lontano.» Levin si accigliò e tacque. «Ebbene, lui è comparso qui poco dopo la tua partenza e, se non mi inganno, è innamorato pazzo di Kitty. E capirai che la madre...» «Scusami, ma non ci capisco nulla», disse Levin, cupo, aggrottandosi, e immediatamente si ricordò di suo fratello Nikolai e di quanto egli stesso fosse spregevole per il fatto di essersene dimenticato. «Aspetta, aspetta», disse Stepan Arkadyč, sorridendo e toccandogli il braccio. «Io ti ho detto ciò che so e ripeto che in questa cosa così sottile e delicata, per quanto si possa intuire, mi sembra che le chance siano dalla tua parte.» Levin si buttò indietro sulla sedia. La sua faccia era pallida. «Ti consiglierei però di decidere la cosa al più presto», continuò Oblonsky riempiendogli la coppa. «No, grazie, non posso bere altro», disse Levin allontanando la sua coppa. «Mi ubriacherei.» «Allora, come te la passi?» proseguì desiderando palesemente cambiar discorso. «Ancora una parola, ti consiglio in ogni caso di risolvere la questione al più presto. Oggi. Però è forse meglio che non ne parli. Domani mattina, alla maniera classica, vai a fare la tua domanda e che Dio ti benedica», disse Stepan Arkadyč. «Non volevi sempre venire a caccia da me? Vieni questa primavera», disse Levin. Adesso si pentiva con tutta l'anima d'aver cominciato quella conversazione con Stepan Arkadyč. Il suo particolare sentimento era stato offeso dal discorso sulla rivalità di un qualunque ufficiale di Pietroburgo, dalle supposizioni e dai consigli di Stepan Arkadyč. Stepan Arkadyč sorrise, capiva ciò che succedeva nell'animo di Levin. «Sì, un giorno verrò. Amico, le donne sono il perno su cui tutto gira. Anche le mie faccende vanno male, molto male, e tutto per via delle donne. Dimmi sinceramente», continuò dopo aver preso un sigaro e tenendo con una mano la coppa, «dammi un consiglio.» «Ma in che cosa?» «Ecco, supponiamo che tu sia sposato, che tu voglia bene a tua moglie, ma ti sia innamorato di un'altra donna.» «Scusa, ma questo assolutamente non lo capisco. Esattamente come non capisco che dopo essermi saziato mi possa venir voglia, passando davanti a un fornaio, di rubare una ciambella.» «Ecco, vedi», disse Stepan Arkadyč, «tu sei un uomo tutto d'un pezzo. Questa è la tua qualità e il tuo difetto. Tu sei un carattere tutto d'un pezzo e vuoi che tutta la vita sia costituita da fenomeni tutti d'un pezzo, ma questo non succede. Tu vuoi anche che l'attività di un uomo abbia sempre uno scopo, che l'amore e la vita familiare siano sempre una cosa sola, e questo non succede. Tutta la varietà, tutto il fascino, tutta la bellezza della vita sono fatti di luci e di ombre.» Levin sospirò e non rispose nulla. Pensava a cose sue e non ascoltava Oblonsky. E a un tratto entrambi sentirono che, benché fossero amici, benché pranzassero insieme e bevessero un vino che avrebbe dovuto avvicinarli ancor più, ognuno pensava invece a cose sue e a ognuno non importava dell'altro. Già più di una volta Oblonsky aveva provato questo distacco estremo che si produce dopo un pranzo e sapeva che cosa si deve fare in questi casi. «Il conto!» gridò e uscì nella sala adiacente, dove subito incontrò un aiutante di campo che conosceva e con cui si mise a chiacchierare a proposito di un'attrice e di chi la manteneva. E subito, nella conversazione con l'aiutante, Oblonsky sentì un sollievo e un rilassamento dopo la conversazione con Levin, il quale lo portava sempre a una troppo alta tensione mentale e spirituale. Quando il tartaro comparve con il conto di 26 rubli e varie copeche più il supplemento per la vodka, Levin, che in un altro momento da campagnolo sarebbe stato terrorizzato da un conto di 14 rubli a suo carico, ora non vi fece attenzione. Pagò e si diresse a casa per cambiarsi e andare dagli Scerbachi, dove si sarebbe decisa la sua sorte. La principessina Kitty Scerbakaja aveva 18 anni. Era il primo inverno che si presentava in società. I suoi successi mondani erano superiori a quelli di entrambe le sue sorelle maggiori e anche superiori a quanto si aspettasse la principessa madre. Non solo i giovani che frequentavano i balli moscoviti erano quasi tutti innamorati di Kitty, ma già in quel primo inverno si erano presentati due partiti seri, Levin e subito dopo la sua partenza il conte Vronsky. Dopo il pranzo e sino al principio della serata, Kitty provò una sensazione simile a quella che prova un giovane prima della battaglia. Il suo cuore batteva con violenza e i pensieri non riuscivano a fissarsi sul nulla. Sentiva che quella sera, quando tutti e due si sarebbero incontrati per la prima volta, doveva essere decisiva nel suo destino. E incessantemente se li immaginava, ora ciascuno separatamente, ora tutti e due insieme. Quando pensava al passato si fermava con piacere, con tenerezza sul ricordo di Levin. I ricordi dell'infanzia e i ricordi dell'amicizia di Levin con suo fratello morto davano un particolare fascino poetico ai suoi rapporti con lui. Il suo amore per lei, del quale era sicura, la lusingava e le dava gioia. E le riusciva spontaneo ricordare Levin. Nei ricordi su Vronsky si mischiava invece qualcosa di imbarazzante, benché egli fosse un uomo in sommo grado mondano e sereno, come se ci fosse qualcosa di falso, non in lui che era tanto semplice e caro, ma in lei stessa, mentre con Levin si sentiva assolutamente semplice e chiara. In compenso però, non appena pensava all'avvenire con Vronsky, le appariva una prospettiva di brillante felicità, mentre con Levin l'avvenire si presentava nebuloso. Alle 7:30, appena era discesa in salotto, il domestico annunciò Konstantin Dmitrich Levin. La principessa era ancora nella sua stanza e il principe non era uscito. «Ci siamo», pensò Kitty, e tutto il sangue le affluì al cuore. Si guardò nello specchio e si spaventò del proprio pallore. Adesso sapeva con certezza che egli era venuto in anticipo apposta per trovarla sola e farle la sua proposta. E solo a questo punto, per la prima volta, tutta la cosa le apparve sotto un aspetto completamente nuovo, diverso. Solo a questo punto comprese che la questione non riguardava lei sola, con chi sarebbe stata felice e chi avrebbe amato, ma che in quel momento avrebbe dovuto offendere un uomo a cui voleva bene e offenderlo crudelmente. Per che cosa? Per il fatto che lui, caro, l'amava, era innamorato di lei. Ma non c'era niente da fare. Così bisognava, così si doveva. Dio mio, possibile che debba essere proprio io a dirgli questo? E che cosa gli dico? Come faccio a dirgli che non lo amo? Non sarebbe la verità. Che cosa gli dirò, dunque? Gli dirò che amo un altro. No, questo è impossibile. Me ne vado, me ne vado. Stava già avvicinandosi alla porta quando udì i suoi passi. No, non è onesto. Che cosa ho da temere? Io non ho fatto niente di male. Quel che sarà, sarà. Dirò la verità. E poi con lui non può essere imbarazzante. Eccolo. Si disse vedendo l'intera, forte e timida figura di lui con gli occhi luccicanti rivolti verso di lei. Lo guardò dritto in faccia, come supplicandolo di risparmiarla, e gli porse la mano. «Non sono venuto all'ora giusta, troppo presto, credo», egli disse, guardando il salotto vuoto. Quando vide che le sue aspettative si erano avverate, che nulla gli impediva di dichiararsi, il suo viso si fece cupo. «Oh no», disse Kitty, e si sedette al tavolo. «Ma ciò che volevo era proprio trovarvi sola», cominciò egli, senza sedersi e senza guardarla per non perdere coraggio. «La mamma viene subito. Ieri si è stancata molto. Ieri...» Essa parlava senza sapere che cosa dicessero le sue labbra e senza distogliere da lui il suo sguardo supplice e carezzevole. Lui le gettò un'occhiata e lei arrossì e tacque. «Vi avevo detto di non sapere se ero arrivato per fermarmi molto tempo, che questo dipende da voi». Lei chinava sempre più il capo senza sapere che cosa avrebbe risposto. «Che questo dipende da voi», ripeté lui. «Io volevo dire... Io sono arrivato per questo, perché voi siate mia moglie», proferì senza sapere che cosa dicesse, ma sentendo che la cosa più terribile era stata detta, si fermò e la guardò. Lei respirava con difficoltà senza guardarlo. Si sentiva in estasi. La sua anima era piena di felicità. Non si aspettava certamente che, dichiarandosi, l'amore di lui le avrebbe prodotto una così forte impressione. Si ricordò di Vronsky. Alzò su Levin i luminosi occhi veritieri e, vedendo la sua faccia disperata, rispose in fretta: «È impossibile, perdonatemi!» Come gli era stata vicina un minuto prima, come era stata importante per la sua vita e come era diventata estranea adesso e lontana. «Non poteva essere altrimenti», disse Levin senza guardarla. Si inchinò e fece per andarsene. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κινήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τ' όνειρά μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάβει τ' αστέρι με πώς να ντυθείς. Στερίμε posna di ti. In quel momento nella stanza entrò un'altra signora e Levin si alzò e si voltò a guardare il militare che era entrato dietro la signora. «Deve essere Vronsky», pensò Levin, e per convincersene lanciò un'occhiata a Kitty. Lei era già riuscita a gettare uno sguardo a Vronsky e ora si voltava a guardare Levin. Da quel solo sguardo dei suoi occhi che involontariamente si erano illuminati, Levin capì che essa amava quell'uomo. Lo capì con la stessa sicurezza che se lei glielo avesse detto con le parole. Ma che uomo era quello? Vronsky non aveva mai conosciuto vita familiare. Uscendo dalla scuola giovanissimo, brillante ufficiale, si era subito instradato sul binario dei ricchi militari di Pietroburgo. Benché di tanto in tanto frequentasse anche la società pietroburghese, tutti i suoi interessi amorosi erano fuori di questa società. A Mosca aveva sperimentato per la prima volta, dopo la lussuosa e rozza vita di Pietroburgo, il fascino di avvicinare una cara e innocente ragazza che si era innamorata di lui. Non gli passava per la testa che nei suoi rapporti con Kitty potesse esserci qualcosa di cattivo. Ai balli danzava prevalentemente con lei, frequentava la sua casa. Parlando con lei diceva ciò che solitamente si dice in società, ogni sorta di sciocchezze, e tuttavia sciocchezze alle quali involontariamente egli conferiva un significato particolare per lei. Benché non le avesse detto niente che non avrebbe potuto dire davanti a tutti, sentiva che essa si legava sempre più a lui, e quanto più sentiva questo, tanto più la cosa gli faceva piacere e i suoi sentimenti verso di lei diventavano più teneri. Egli non sapeva che il suo modo di agire nei confronti di Kitty ha un nome preciso e si chiama sedurre le signorine senza avere intenzione di sposarsi e che il sedurre è una delle cattive azioni più comuni fra i giovani brillanti come era lui. A lui sembrava d'essere stato il primo a scoprire questo piacere e godeva della propria scoperta. Se avesse potuto sentire che cosa si erano detti quella sera i genitori di lei, se avesse potuto mettersi dal punto di vista della famiglia e sapere che Kitty sarebbe stata infelice se lui non l'avesse sposata, se ne sarebbe meravigliato molto e non ci avrebbe creduto. Non avrebbe potuto credere che quanto procurava un piacere così grande e buono a lui, e in special modo a lei, potesse essere una cosa cattiva. Ancor meno avrebbe potuto credere al fatto che doveva sposarsi. Per lui il matrimonio non si era mai presentato come una cosa possibile. Non solo non amava la vita familiare, ma nella famiglia e in particolare nella parte del marito, secondo la concezione comune a tutto il mondo degli scapoli in cui viveva, egli immaginava qualcosa di estraneo a sé, di ostile e soprattutto di ridicolo. Sebbene non sospettasse neppure ciò che avevano detto i genitori di lei, uscendo quella sera dagli scerbachi, Vronsky sentiva però che il segreto legame spirituale esistente fra lui e Kitty quella sera si era riconfermato in modo così forte che occorreva fare qualcosa. Ma che cosa si potesse e si dovesse fare non poteva neppure immaginarlo. «Questo è incantevole», pensava di ritorno dagli scerbachi e recandone come sempre una gradevole sensazione di purezza e di freschezza, derivata in parte anche dal fatto che non aveva fumato durante l'intera serata, e nello stesso tempo una sensazione nuova di commozione per l'amore di lei verso di lui. Questo è incantevole, che non è stato detto nulla né da lei né da me, ma ci capivamo talmente in quell'invisibile colloquio di sguardi e di intonazioni che oggi lei mi ha detto di amarmi in maniera più chiara che mai. E in che maniera, cara, semplice e soprattutto fiduciosa. Io stesso mi sento migliore, più puro. Sento che in me c'è un cuore e c'è molto di buono. Quei cari occhi innamorati, quando lei ha detto «e molto». E allora, per me è bene ed è bene anche per lei. E si mise a pensare dove concludere la serata.